e quindi l'ho sempre seguito anche nella mia crescita da adulto, e poi ho seguito i suoi processi, eccetera, eccetera. Quindi quando si sono incominciate a verificare le prime condanne, assoluzioni riguardo insomma ai processi che lui ha subito come mandante dell'omicidio di Carmine Pecorelli, poi per mafia, logicamente non ho potuto che rintracciare poi le varie sentenze, da quella di primo grado, il secondo grado e poi quella della Cassazione, e su questo materiale poi piano piano è nato lo spettacolo che è debuttato nel 2006 al Teatro India, che poi è stato replicato per quasi 10 anni circa. Ha mantenuto sempre quella forma? Sì, la struttura è rimasta sempre la stessa, c'è l'utilizzo proprio in scena anche a livello di improvvisazione del materiale giudiziario, quindi proprio leggendo le testimonianze dirette e anche le dichiarazioni degli avvocati, dei giudici, e cercando di ricostruire a ritroso, partendo da uno spettatore, la storia d'Italia, che corrisponde poi anche alla storia di Andreotti, perché il personaggio Giulio Andreotti inizia praticamente a comparire nella storia italiana nel 1936 come giovane studente, come rappresentante degli studenti cattolici, e poi fino alla sua morte praticamente non ci ha mai abbandonato. Quindi ricostruire la storia politica e le vicende politiche e giudiziarie di Giulio Andreotti significa ricostruire le vicende politiche e giudiziarie del nostro paese. Che quadro hai composto? Che mosaico viene fuori del personaggio e anche del contesto mafioso cui fa riferimento? Beh, è un contesto abbastanza inquietante che penso non si sia del tutto spento anche ai giorni d'oggi. Cioè, lui rappresenta una vecchia politica che può esistere all'epoca, diciamo nel periodo del dopoguerra, fino ai primi anni 90, perché esiste il blocco tra Est e Ovest, no? Tra blocco sovietico e paesi NATO. E quindi, come dire, ogni giudizio critico nei confronti della Democrazia Cristiana viene sospeso anche dai nostri alleati, perché comunque bisogna salvaguardare l'Italia dall'invasione sovietica e dal comunismo. E quindi anche il giudizio critico su tutti i personaggi della Democrazia Cristiana, e quindi anche su Giulio Andreotti, viene completamente sospeso. Logicamente, quando poi cade il muro di Berlino, con tutto quello che poi ne consegue anche dal punto di vista simbolico, a quel punto Giulio Andreotti si trova forse anche a pagare un po' per tutti quanti, no? Perché se pensiamo che, per esempio, Fanfani, prima di ritirarsi dalla politica, fa una cosa quasi geniale, cioè fa un'amnistia per i reati di corruzione, per i vari reati anche di concussione, per reati di tipo politico, eccetera, eccetera, che riguarda tutta la politica italiana fino al 1980. E poi si ritira dalla politica. Giulio Andreotti, questo logicamente essendo un po' più giovanetto di Amintore Fanfani, logicamente non è rientrato in questa amnistia, come tanti altri non sono rientrati in questa amnistia, e quindi poi hanno pagato anche per le colpe dei loro predecessori, grosso modo. È la composizione di un quadro politico dove tutto si costruisce sul ricatto e sulla menzogna, e la grande bugia poi, che è all'origine un po' di tutto quello che succede in Italia, è proprio come sono sbarcati gli alleati in Sicilia, come sono sbarcati ad Anzio, chi li ha aiutati e che fine hanno fatto i soldi loro, per esempio, della Banca d'Italia, il ruolo reale di personaggi come Licio Gelli, come Carmine Pecorelli all'interno della storia d'Italia, perché tutti questi personaggi, da Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giulio Andreotti, Carmine Pecorelli, Licio Gelli, Ortolani, tutti i personaggi che adesso facciamo anche fatica a ricordare, in realtà hanno contribuito nel bene o nel male a alla cacciata del nazifascismo dall'Italia. Quindi loro erano i depositari di tutta una serie di segreti che poi non ci sono mai stati raccontati, perché loro hanno esercitato il potere del ricatto a livello sia nazionale che internazionale. Con te, per parlare anche di questo momento, dello stato dell'arte, della cultura in tempi di contagio, tu gestisci anche il Teatro Furio Camillo, volevo chiederti un po' considerazioni su questa fase. Ma questa questa è una fase molto particolare, quindi dobbiamo stare veramente molto attenti, perché non so come dire, in queste due settimane, diciamo dal 21-22 di febbraio ad oggi, hanno lentamente costruito intorno a noi il mondo che verrà. C'è un mondo che non ha bisogno di strutture scolastiche, un mondo che non ha bisogno di strutture universitarie, perché tutto può avvenire anche per via telematica, possiamo lavorare da casa. Sta diventando una specie di prova generale su tutto questo, quindi dobbiamo anche stare molto attenti a gestirlo e tutto questo che sta accadendo, e poter dire, anche se condividiamo o non condividiamo le motivazioni per cui tutto questo si sta realizzando in questo periodo, in questi giorni, però dobbiamo fare molta attenzione, tenere gli occhi aperti e poter anche manifestare immediatamente il nostro dissenso, perché non possiamo accettare interviste in cui esperti ci raccontano che tutto sommato stare a casa per un ragazzo di 15 anni e assistere a delle lezioni da casa su Skype sia la stessa cosa che stare in classe. Cioè, tutto questo noi in questo momento lo dobbiamo gestire, lo dobbiamo anche subire, ma dobbiamo anche essere pronti a reagire, perché dal mio punto di vista il mondo che verrà, di cui ne vediamo le tracce in questi giorni, non mi piace. Io sono grande e quindi ho un'altra visione. Chi è più giovane, chi ha 20 anni, dovrà dirci presto, spero, se questo mondo che verrà ci piace, anche perché quello che è il mio futuro per un ragazzo di 20 anni potrebbe essere il suo presente, quindi ci tengo che ci sia uno sguardo critico su effettivamente le decisioni che sono state prese in questi giorni, sia, ripeto, se si condividono o non condividono le motivazioni che stanno alle spalle. Gianluca, un abbraccio, a presto, speriamo di sentirci in occasioni migliori. Certo, certo, vi aspettiamo a teatro, appena il teatro Giulio Camillo potrà riaprire. Allora, a presto, ciao caro. Grazie, grazie Fede, ciao. Oh, dovrebbe essere il momento dell'agenda della settimana teatrale con Simone Nebbia di Teatro e Critica, ma essendo tutto bloccato sarà un po' il caso di fare qualche riflessione sullo stato dell'arte. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio. Qualche riflessione. In fondo le riflessioni non sono così difficili da fare. La situazione è abbastanza chiara per tutti, perché segue un po' l'ambiente teatrale, ma insomma, seguendo le direttive degli ultimi decreti, quello soprattutto della notte tra il 7 e l'8 marzo, tutti gli spettacoli teatrali e per ciò che riguarda insomma il teatro, ma insomma seguendo un po' l'iter anche dei cinema e degli eventi, le manifestazioni, insomma spettacoli di qualsiasi natura, sono sospesi in tutto il territorio nazionale. Misure di contenimento che già insomma erano state applicate in alcune regioni italiane. Che cosa succede in questo caso, Federico? Succede qualcosa intanto di innovativo rispetto al linguaggio della politica. Se il primo decreto del 4 marzo aveva posto la possibilità per gli esercenti, attenzione, sono esercenti sia pubblici che privati, quindi posto la possibilità di scelta secondo le direttive di separazione di un metro, insomma tutto quello che abbiamo letto dai giornali, quindi ogni teatro poteva scegliere se restare aperto seguendo le norme di sicurezza rispetto alla possibilità di contagio da virus. Questo è un linguaggio semplice, insomma, che la politica mette in campo da sempre. Non c'è un divieto effettivo, ma una serie di misure restrittive per cui poi l'esercente stesso che deve accettare di chiudere, però lo fa per sua scelta, no? Sì. Questo è un po' il contesto in cui si è sempre mosso il linguaggio della politica. In questo caso cambia una cosa fondamentale, ossia c'è la sospensione, c'è il divieto per esercenti pubblici e privati di svolgere attività di spettacolo, cinematografica, teatrale o quello che sia. Oltretutto anche la sospensione per attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommessa, discoteche, insomma locali assimilati, e stop anche per i musei. Quindi ecco, è l'intero comparto culturale che di viene in qualche modo fermato dall'alto, però non c'è più la possibilità di scendere. E questo è interessante perché non è una cosa che si è verificata molto spesso nella storia. Questo ci lascia una riflessione piuttosto semplice. L'intero comparto culturale è il primo ad essere stato buttato giù dalla nave, no? Nel momento in cui bisogna alleggerire Zavorra. Questo non cambia che le misure effettivamente hanno una necessità e in qualche modo afferiscono il nostro senso di responsabilità, però sicuramente la leggerezza con cui l'intero comparto culturale, quindi tutti coloro che lavorano all'interno, nell'indotto, diciamo, del contesto culturale, la maggior parte dei quali hanno contratti o partite IVA, quindi hanno contratti molto, molto esili o lavorano a partita IVA, quindi non vivranno benissimo sul piano retributivo questo periodo, sono stati letteralmente abbandonati, almeno per ora. Quindi quello che ci aspettiamo è che poi successivamente, quando la situazione diventerà, ci auguriamo, speriamo, decisamente più gestibile, ci sia poi una possibilità di reintegro per tutti coloro che lavorano in questo settore, perché diversamente il settore sta per dichiarare la propria morte in qualche maniera, insomma, perché non c'è teatro o attività culturale che possa sopravvivere senza un finanziamento. Questo è un vecchio problema che in questo momento fa vedere finalmente, purtroppo, la sua prospettiva, il suo risultato più macabro. Che i lavoratori dello spettacolo non avessero una tutela, questo lo sappiamo da tanti anni, le grandi battaglie del vituperato Teatro Valle Occupato e di tanti altri, le battaglie attuali di Cresco, in una misura diversa sicuramente, però insomma Cresco è un comitato che proprio su questo si batte, e tante altre attività, ricordiamo insomma tante unioni dei lavoratori dello spettacolo che hanno cercato in questi anni di segnalare il problema, ora fanno vedere come avessero le maggiori ragioni a rivendicare dei diritti che attualmente sono letteralmente rimossi. Quindi attendiamo che la situazione torni in una chiave di gestibilità. Nel frattempo qualche teatro aveva tentato delle operazioni di teatro in streaming, anche il Teatro Biondo di Palermo, l'unico, diciamo, tra i teatri ufficiali, tra i teatri pubblici a tentare questa strada. Vediamo come anche, ecco, su Roma, chi aveva tentato, piccoli teatri hanno tentato questa possibilità, hanno poi dovuto in qualche modo tornare indietro, ma anche perché, ripeto, la situazione non si sta attenuando e la crescita dei contagi è esponenziale, quindi a tutti gli effetti occorre un atto di responsabilità da parte del singolo anche nel solo uscire di casa. Questo è quanto, Federico, insomma, per quanto riguarda il commento sulla situazione. A questo punto ci diamo appuntamento a martedì prossimo e capiamo anche un po' meglio come si sta sviluppando la situazione, anche perché stiamo comunque continuando a proporre spettacoli dall'archivio, per cui chi non ha avuto modo di ascoltarli, stiamo facendo una scelta per comunque garantire anche chi sta a casa di godere del teatro. Vedi, io su questo mi permetto di aggiungere una piccola postilla, no? Viviamo, lo so, è una cosa un po' lanciata in aria, però ogni settimana noi cambiamo sale teatrali, scappiamo da una parte all'altra, vediamo a volte più spettacoli nella stessa giornata, parliamo costantemente di cose che il giorno dopo vanno un po' in deperimento, la settimana dopo sicuramente siamo in un altro contesto. È tutto molto bello e riguarda un po' la velocità del mondo di oggi. Però questa velocità, questa voracità, oggi che abbiamo una difficoltà, possiamo in qualche modo riportarla in una chiave di leggibilità un po' più antica e forse un po' più incline alla nostra natura. Io sposo l'idea, ora che abbiamo difficoltà a stare in pubblico, di rieducarci sentimentalmente. Ecco, la nuova educazione sentimentale al teatro, alle arti, mi sembra possa essere un po' la chiave per passare questo tempo in una dimensione comunque calda, comunitaria, umana, restare collegati però con il cuore, con il cervello sempre attivi. Simone, t'abbraccio. Buon pomeriggio a tutti e ci vediamo presto. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.